Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno a tutti da Alessio Maurizi. E buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. 8:34 minuti, inizia una nuova puntata di Si può fare, una nuova domenica mattina insieme, 800 24 00 24. E stiamo insieme fino alle 10. Carlo, Milano Monterosa. Bello, bellissimo, c'è il sole. Oggi sì. Sta arrivando la primavera, si può dire? Troppo presto? No, sta arrivando la primavera. 16 giorni. Tanto è vero che tornano, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, le notti degli gnomi. Per salvare i rospi, ci sono dei volontari che sono delle persone straordinarie, perché se il rospo maschio non riesce a raggiungere il rospo femmina e attraversando la strada di notte succede quello che purtroppo sappiamo spesso succede, si blocca l'ecosistema. Che sono cose che succedono anche in corso Buenos Aires. Comunque a volte se tu uomo da una parte non riesci a raggiungere donna dall'altra parte, può essere che poi si blocchi l'ecosistema, nascano meno figli. Esatto, quindi immaginiamo lo stesso evento che accade per i poveri rospi indifesi. Quindi vi segnalo che potete partecipare, perché proprio in queste sere, in queste notti di inizio primavera o di fine inverno, tanti volontari si animano per questo. Però voglio ricordare anche un'altra cosa. Stamattina siamo partiti così. C'è anche la giornata oggi, ne abbiamo parlato ieri anticipandola, dei treni turistici. Certo. E ci sono tanti appuntamenti, ne abbiamo detti alcuni. C'è la pedalata sulla Francigena, la scoperta della ferrovia di Ostiglia, la Transiberiana. Insomma, andate su internet e cercate. Oggi ci sono la Transiberiana tanti... è lunga però per farla. Quella da Sulmona, non mi ricordo poi esattamente dove. In giornata, se no uno dice purtroppo oggi è la giornata della Transiberiana, quindi torno verso maggio. 800 24 00 24. Tra poco parleremo di scuola, di una scuola capovolta. Bello, un bel progetto, un bel si può fare. Dove vediamo... si studia a casa e si fanno i compiti a scuola. Esatto, per dirla vediamo semplice. Se la scuola italiana cresce e migliora sempre di più. Però cerchiamo anche un personaggio della settimana, perché vogliamo regalarvi anche oggi un libro. E quindi cominciamo con un indizio. Col dare il primo indizio. Questo personaggio ha una notizia che lo riguarda negli ultimi 7 giorni. Il primo indizio che vi vado a dare è che è tornato sulla scena. Perfetto. Quindi pensate e chiamate 800 24 00 24. Questo paese è pronto per la regolamentazione dell'eutanasia. Se ci fossero dei parlamentari che vorranno proporlo già in questa legislatura, ho anche l'impressione che la maggioranza non cambierebbe molto, perché quelli che sono contro a tutto. Noi chiediamo delle regole, un'assunzione di responsabilità, e che questa assunzione di responsabilità sia presa e assunta adesso. E noi ne abbiamo parlato anche ieri con Furio Zucco, il grande Furio Zucco, che con Presenza Amica si occupa da tanti anni della fase avanzata delle malattie, perché siamo partiti da questa notizia. Al di là del dibattito sul fatto della legge, politici che si scannano in televisione, gente bannata da Facebook per commenti assurdi e strampalati, c'è un bisogno, soprattutto da parte dei giovani, dei ragazzi delle scuole italiane, di parlare di questa questione, di affrontarla e probabilmente affrontarla, di comprenderla anche comprenderla nei termini complessi di questa cosa qua. Furio Zucco ieri ci ha aiutato a capire e ci ha detto però anche che in effetti i ragazzi chiedono probabilmente sì, a differenza dei politici italiani, in questo momento chiedono una legge, chiedono che ci sia il diritto di poter scegliere, perché sì, soprattutto chiedono di capire, dicevi molto giustamente, siccome questa legge in Italia l'aspettiamo da tantissimo tempo e abbiamo anche tutto un elenco, un rosario di morti che sono morti lottando per cercare di avere questa legge, giustamente noi ci siamo occupati del fatto che i giovani chiedono di saperne di più e speriamo che non dobbiamo aspettare che questi giovani siano loro in Parlamento per avere la legge, perché questo sarebbe un peccato. Però intanto in questo modo si spera di sveltire le operazioni. Ovviamente siamo partiti da DJ Fabo, è sempre anche molto difficile quando si parla di questi casi, di qualcuno che cerca la propria morte, comprendere se poi è una buona o non è una buona notizia il fatto che lui sia riuscito a fare quello che voleva, ma è riuscito a farlo in Svizzera, perché in Italia non è permesso. 800 24 00 24, anche su questo, se volete intervenire, noi siamo qua, vi aspettiamo. Vi ricordo anche l'indizio per il personaggio della settimana: è un personaggio che è tornato sulla scena. Totti stava dalla parte del suo presidente, che lo paga, altro che beneficenza, e sosteneva la speculazione del suo presidente. Stadio una cosa, grattacieli sono un'altra. Se non l'avete capito, siete delle teste di cazzo. E vabbè, questo è... buona domenica, volevi dire. Buona domenica, sì. Buona domenica anche a Sgarbi. È la particolarissima guerra che Sgarbi ha intrapreso contro Totti, contro Capitan Totti, come sempre paradossale Sgarbi, ma insomma il punto di non possiamo far decidere a Totti sullo stadio della Roma, solo quando Totti ha implorato di fare lo stadio, allora la Giunta, la Raggi sono mossi, eccetera eccetera. In realtà non è così semplice. No, non è così, ma prendendo il ragionamento in questo modo ha ragione Sgarbi, nel senso che non è che possiamo farci consigliare dal punto di vista umanistico, ma il povero Totti non è certo lui che intendeva fare questo, non è certo lui che mette la firma lo stadio dicendo secondo me questa non è una zona idrogeologicamente sbagliata e così via. È ovvio che non è affar suo. Comunque è la settimana ci lascia la notizia che la conferenza dei servizi di Roma non ha prorogato, come chiedevano i proponenti, le scadenze. Adesso tutto in mano alla regione e si vedrà se questo progetto ridimensionato nelle cubature. Posso dire anche una cosa però su questa roba, perché puoi tutti addosso alla Raggi sul fatto che si sono perse le infrastrutture, non ci sono più le opere pubbliche perché il progetto è stato ridimensionato. Ma può l'Italia essere un paese nel quale per fare un ponte, un'autostrada o un parco devo concedere a un privato di fare 3 grattacieli di 60 piani? Vogliamo poter fare il parco indipendentemente dalle cubature o dobbiamo fare questo scambio tutta la vita? Secondo me questo scambio è una follia. Però. Il problema dello scambio però è che dal momento in cui le amministrazioni non hanno i soldi per costruire i parchi, l'unico modo è i cosiddetti oneri di urbanizzazione. Poi giustamente la cosa che va capita è le cose, cioè ci sono quelli che dicono il progetto prima insieme allo stadio aveva degli oneri di urbanizzazione che la città avrebbero fatto benissimo. Se tu togli quelli, i costruttori sono semplicemente più felici perché per loro quello è solo un costo. E qualcun altro che dice no, le cose che sono state tolte in realtà è una cementificazione incredibile, quindi questo è un danno. In più quello che dici tu dici io vorrei che la mia amministrazione, se ha voglia di fare un parco, fa un parco. Lo fa, non è che deve aspettare il privato, possibilmente americano, che io in cambio di un parco poi devo avere, cioè davanti ho 2 alberelli e alle spalle ho 104 centri commerciali. Marciali. È questo. Va bene, adesso come annunciato parliamo di scuola. Siamo andati a rispolverare questa Diana Ross, non so di che anno, Upside Down, sotto sopra, perché parliamo di questo progetto, un progetto nuovo che riguarda la scuola italiana, una scuola speriamo che in cambiamento, in miglioramento soprattutto, è il progetto della scuola capovolta. ne parliamo. C'è stato un convegno a Roma, tutti gli insegnanti che portano avanti questo progetto della scuola capovolta si sono trovati per il secondo anno per fare il punto su questo progetto che silenziosamente sta entrando nelle scuole italiane. Noi abbiamo con noi la preside dell'Istituto Paolo Frisi di Melegnano, Giordana Mercuriali. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. E allora, cerchiamo di spiegare questo progetto che riguarda la scuola italiana, tirata in ballo tantissime volte su tanti temi, da insomma è ingolfata di questioni, dal contrasto al bullismo, bisogna formare i ragazzi per il lavoro, no? Bisogna formarli per la vita, poi c'è il problema dell'italiano, non imparano l'italiano, non imparano più le materie, eccetera, eccetera. Questo è un po' il dibattito che c'è. Allora, invece questo progetto della scuola capovolta, che voi pure state portando avanti da due stagioni all'interno della scuola di Melegnano, mi pare di capire che uno dei punti di partenza sia quello di voler utilizzare le risorse positive dei ragazzi, come la loro propensione al gioco, il sorriso, l'interazione, anziché come si faceva nella scuola tradizionale, dove si stava lì zitti, fermi, buoni, e qualcuno parla di scuola ad ascoltare. Esatto, scuola senza paura. Così? È vero, è proprio vero, è proprio così. Diciamo che la didattica capovolta, la metodologia di flipped, diciamo come all'inglese, insomma, coinvolge i ragazzi in prima persona. È una didattica attiva che un po' ha le radici appunto nella cultura anche delle metodologie italiane, insomma, quelle nelle quali i ragazzi sono coinvolti in attività di laboratorio, imparano facendo. Ma soprattutto la didattica capovolta consente un lavoro cooperativo e la costituzione di una comunità educativa, una comunità di pratica. Ma per ci spiega come funziona? Sì, esatto. Come funziona? Perché a me mi sembra una cosa molto bella, nel senso che da quello che ho capito è che gli studenti a casa il giorno prima della lezione vengono preparati sulla lezione attraverso dei video e poi in realtà in classe fanno delle esercitazioni. Però se lo spiega lei è sicuramente meglio che una preside. E volevo anche dire che noi siamo proprio capovolti di nostro, perché giustamente anche questa è didattica capovolta, cioè di studio. Una preside di domenica. Giustamente, giustamente. No, praticamente in pratica avviene così, che i ragazzi si preparano su un argomento attraverso dei materiali che vengono inviati anche attraverso piattaforme, delle classi virtuali. E ricercano materiale anche in rete, per questo la necessità anche di essere un po' tecnologici in questo senso. E poi il giorno successivo, guidati dall'insegnante, che non è l'insegnante di classe, quello che fa lezione dalla cattedra, ma diventa, come dire, un moderatore, un motivatore, insomma, in questo senso. Ma mi scusi, se devono cercare anche in rete, quindi in realtà non è che hanno, cioè è una sorta di autogestione nel momento in cui loro devono portarsi a casa, diciamo, le informazioni, oppure allora, è un materiale uguale per tutti? No, è guidato, l'insegnante mette dei materiali a disposizione, dà dei link, suggerisce, poi ovvio la rete è aperta, per cui possono cercarsi degli approfondimenti. Se vogliono leggere Manzoni non è vietato, insomma. No, assolutamente. E quindi poi niente, in classe ognuno porta quello che gli è rimasto più impresso, quello che ha imparato, quello che ha approfondito. In questo senso diventa una didattica anche personalizzata, cioè ognuno, come dire, costruisce il suo percorso di apprendimento in modo attivo e facendo delle scelte. Le voglio chiedere quali sono i vantaggi per l'apprendimento, per gli studenti, che cosa migliora, che cosa avete visto che migliora, quali sono gli obiettivi che vi aspettate da questo scuola capovolta. Però le chiedo di pazientare un attimo, le informazioni sul traffico, poi torniamo. 800 24 00 24. Ascoltatori, se invece volete già caricare le vostre domande, perché la scuola è un tema ultra trasversale. Chi ha i figli che vanno a scuola, chi è insegnante, chi è stato a scuola, quasi tutti direi, quindi si spera, la curiosità c'è, tra poco. Faircam Air Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte, faircam.com vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. E E allora, di nuovo in compagnia della preside dell'Istituto Paolo Frisi di Melegnano, Giordana Mercuriali, che ci sta spiegando come e perché nella loro scuola, ma sono tante le scuole italiane, in cui si sta sperimentando questa scuola capovolta. Tante, ma non tantissime. Lo facciamo dire. Quali sono i vantaggi, quali sono gli obiettivi che vi aspettate da questa scuola capovolta, nella quale, sintetizzo, magari semplificando un po', però insomma il giorno prima i ragazzi fanno una sorta di lezione a casa, usando dei video, anche delle proposte multimediali che arrivano dalla scuola stessa, ma che in qualche modo loro poi possono approfondire anche spontaneamente. Poi in classe si fanno sostanzialmente i compiti, cioè esercitazioni, più interazione con l'insegnante, un lavoro più costruttivo. Si arriva preparati. Qual è il punto, diciamo, che volete migliorare della scuola, che così com'è oggi non va, e qual è l'obiettivo invece che vi aspettate? Allora, non è in assoluto che non vada, però sicuramente lavorare in questo modo rende i ragazzi protagonisti del proprio apprendimento, e quindi aumenta la motivazione. Sicuramente insegna, cioè permette l'acquisizione di competenze, perché quando si studia e si imparano le cose, le nozioni, per poi doverle mettere in pratica, costruire qualcosa o spiegarle ad altri, perché avviene questo, non ci sono le interrogazioni, non sono la pratica quotidiana come era una volta. Adesso, un sogno per molti di noi che hanno vissuto come un incubo le interrogazioni. Ma in che senso non ci sono le interrogazioni? Perché non ci, nel senso che i professori non interrogano, per esempio, sui video che sono stati mandati a casa? Allora, interrogano sulla costruzione su una costruzione, su quello che hanno imparato i ragazzi, non interrogano, diventa un momento, si chiama di show off. I ragazzi spiegano, raccontano, mostrano quello che hanno imparato e come lo hanno costruito, quindi utilizzano le conoscenze e le devono illustrare, spiegare. Una sorta di presentazione anche di quello sì, che sono è stato presentazioni, fatto. Si utilizza la tecnologia se serve, insomma. Però le voglio chiedere, preside, sì. Le vorrei chiedere questo: quando andavamo a scuola noi, è naturale che ognuno di noi poi faccia questo paragone, ma insomma il punto è questo: stare in silenzio, ascoltare, cercare di come dire, stare in subordine rispetto a quello che era il lavoro dell'insegnante, la proposta dell'insegnante, l'insegnamento cattedratico, era considerato una virtù, perché stavi lì e imparavi da qualcuno che ne sapeva di più. Oggi questo nella vostra metodo di scuola non è più così, oramai è necessario che i ragazzi siano attivi, siano coinvolti, che l'insegnante abbia la capacità di condurli invece che di trasmettere cultura, per cui diciamo tutte le metodologie, compresa appunto questa della didattica capovolta, sì, vanno un po' in questa direzione. Però mi faccia su questo punto fare il padre, io una bambina apprensivo. Di 5 anni, esatto, apprensivo, una bambina di 5 anni e mezzo che l'anno prossimo tra l'altro andrà alle scuole elementari. Lei è una bambina vivace, secondo me intelligentissima, naturalmente. Certo, è il padre che vuole che le dica. Però già passa la sua giornata a giocare e a parlare anche troppo, no? Allora io mi immagino, ma se non sta zitta nemmeno a scuola un po', ascoltare qualcuno che le insegna qualcosa. Sta zitta mai. Guardi, il discorso è che quando uno sta zitto per ascoltare, perché è interessato a quello che sta ascoltando, quello che sta facendo, perché è concentrato, è sicuramente un silenzio dentro il quale c'è apprendimento. Se uno sta zitto, come siamo stati zitti tanti noi a scuola, e non ascolta, non capisce, non recepisce, non memorizza, a questo punto è un silenzio assolutamente vuoto, inutile. Invece io le volevo chiedere un'altra cosa. Mi sto domandando se riesco ad essere così interessante e attrattivo per mia figlia quando cerco di farla stare zitta o no. Insomma, questo è un problema. Questa è la bravura. Dovremmo diventare tutti bravi. È la professionalità degli insegnanti anche, no? Di chi si mette a disposizione degli alunni e dei bambini per condurli nel loro percorso di apprendimento. Certo. E questo è difficile, è molto più difficile quello che fare l'insegnante. Ah, questo di sicuro, questo di sicuro. Infatti era anche di questo che mi chiedevo, perché prima ci stava ricordando che in realtà ai giovani è richiesto anche di andare a fare ricerche in autonomia su internet. Siccome, come tutti ben sappiamo, su internet si trova un po' di tutto, ero un po' preoccupato da questo meccanismo, perché mi chiedevo se gli insegnate anche a come scegliere le proprie fonti, perché questo sarebbe già di per sé, secondo me, un insegnamento fondamentale, molto più importante che le nozioni, perché siccome ormai tutti avevano in mano un telefonino, sapere esattamente qual è la data della battaglia di Worms può non servire. Sapere che su quel sito la data è giusta e che su un altro sito invece è un sito di satira e quindi la battaglia viene messa nel 1900 è importante. E l'altra cosa, siccome immagino che ci siano molti materiali che in realtà vengono dalla scuola americana o da altre culture, se voi state anche producendo dei contenuti da consegnare ai vostri studenti. Sì, sì, gli insegnanti preparano dei video, alcuni sono più tecnologici di altri, comunque riescono meglio, comunque preparano i materiali per gli alunni, altre volte semplicemente li scaricano e magari fanno la traduzione dall'inglese, piuttosto che invece, ecco, è comunque un lavoro di selezione del materiale da parte dell'insegnante, che deve essere preparato, sveglio, intelligente, per cui andare a scegliere quelle cose che sono più interessanti, le cose che sono più coerenti con quello che sta spiegando, che sta insegnando. Quindi sta molto al singolo insegnante, non è che voi avete il materiale già preconfezionato e lo mandate. Perfetto. No, assolutamente. Gli insegnanti se lo fanno. Ci sono delle banche dati, diciamo, delle repository, anche per esempio Flipnet organizza. Esatto, che è la piattaforma che poi ha organizzato anche il convegno di cui parlavamo prima, che era chiamata raccolta centinaia di questi insegnanti che stanno portando avanti questo metodo nuovo della scuola capovolta, nuovo ma forse anche antico per certi aspetti, perché come diceva si recuperano anche pedagogie che in Italia ci sono state e sono già state utilizzate. Grazie Preside Mercuriale per essere stata con noi. Questo, ascoltatori, è il progetto della scuola capovolta. Se vi ha convinto 800 24 00 24, ma anche se non vi ha convinto, esatto, stavo dicendo siamo qua a Giornale Radio, torniamo tra pochissimo, cerchiamo anche un personaggio della settimana che è tornato sulla scena. Sentiremo gli ascoltatori dopo il GR. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21:30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Domenica, ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Gentiloni deve aver paura di Renzi, non deve aver paura di Speranza. Speranza non farà mancare il suo sostegno al governo Gentiloni. 9 minuti, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, ripercorriamo risentendo un po' di cose che sono successe questa settimana. Non è che la politica ci interessi granché, si può fare, però la logica come? Sì. No, mi fa ridere Speranza, perché allora è chiaro, è tutto chiarissimo. Allora, la sinistra del PD si scinde perché Renzi è troppo di destra, però sia chiaro che Gentiloni, che è uguale a Renzi, lo sosteniamo. Tutto molto chiaro, avete capito? Sì, è questo. Vabbè, diciamo, e lui sostiene anche non deve avere paura di me, insomma. Esatto, di consigliare il claim l'ultima a morire, la Speranza. Ancora, vai. A me dispiace molto perché abbiamo fatto di tutto per evitare che chiunque se ne andasse, ma abbiamo avuto l'impressione che fosse un disegno già scritto. Come è scritto, ideato e prodotto da, in questo caso scritto, ideato e prodotto da Massimo D'Alema. Il regista è tutto lui, ha fatto tutto lui. La disgregazione di questo partito c'ha un regista, si chiama Renzi. Si chiama Renzi, se vogliamo trovare un nome e cognome, cosa che a me piace poco. Allora, due messaggi sulla scuola capovolta, faccio la capovolta anch'io, cambiamo argomento. Allora, uno negativo, via sms, la classe capovolta, la nuova baggianata dei pedagogisti appoggiata da presidi interessati a rendere interattivo come un prodotto da banco la nuova buona scuola. Vi consiglio di entrare in classe e confrontarvi con dei docenti seri per capire in che direzione stiamo andando. Ormai, poi è lunghissimo, mi fermo qua a metà, siamo sempre più in una delle trasmissioni della De Filippi. Non penso minimamente che il progetto di cui abbiamo parlato sia verso questo amici o le scuole di alcuni che si vada in questo diciamo gioco perenne, forse perché si è utilizzata la parola gioco ma no, in realtà appunto come abbiamo detto, la capovolta è il fatto di fare la parte nozionistica a casa e di fare la parte attiva dove ci si confronta con i propri compagni in classe. Infatti sentite qua Gabriella su WhatsApp, ci scrive: la classe di mia figlia al liceo si è trovata costretta, a causa di un professore incapace di spiegare, a prepararsi con la didattica capovolta, e fin qua giudizio interlocutorio. Poi però dice: è un metodo che ai ragazzi piace molto, si preparano da soli, poi ascoltano la lezione dei professori con cognizione di causa, quindi sono in grado in maniera interattiva di confrontarsi sugli argomenti. Credo sia un buon metodo. E sicuramente servono anche dei professori molto più bravi, perché un conto è che tu dici le tue cose che sai che vuoi dire, un conto è avere 25 persone che ti fanno domande e si pongono dei dubbi perché dicono: ma io veramente ho letto che questa cosa è anche così, e quindi a quel punto bisogna confrontarsi e non semplicemente dare la propria versione. Lorenzo da Firenze, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Ciao. Buongiorno. No, vi amavo perché mi è sembrata molto... cioè, proprio simpatica come cosa, perché mi ricorda appunto il modello che utilizziamo noi all'Università di Firenze, che c'è una piattaforma che è chiamata Moodle, attraverso la quale il professore la lezione prima carica la lezione successiva, per cui uno prima si può preparare, dopodiché poi a lezione avviene appunto il dibattito su materie, ovviamente non saranno quelle del liceo, saranno universitarie, però Perché tu sei un docente o sei uno studente? No, studente. Sei dalla giovane, no, dalla voce si capiva che eri giovane, però insomma, giusto per capire. Va bene, quindi uno arriva a lezione preparato. Lezione già preparato, e poi lì sì, e appunto avviene appunto il dibattito. L'unico dubbio può venirmi in mente in merito a un livello di istruzione minore, magari il rapporto di fiducia che può esserci tra il professore e lo studente, ovviamente per prepararsi. Uno deve essere anche, comunque vado a casa, mi preparo per poi... deve farlo realmente, perché se non lo fa a casa, visto che a scuola non si fa, non lo fai più, e quindi si rischia di perdere qualcosa. Comunque è interessante, cioè bellino come cosa, non sembra una baggianata. No, ma in più, se possiamo dire, non è nemmeno così distante da metodi già sperimentati, perché anche nella scuola prima di internet capitava che uno studiasse a casa la lezione sul libro e poi a scuola ne discutesse. Il vero cambio, secondo me, è il fatto di discutere una scuola invece di andare avanti con il programma a scuola. Io, avendo fatto la scuola tedesca, è una cosa che già avveniva prima di internet. Questo. Sei sempre avanti, Carlo. Eleonora da Venezia, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Milano, comunque, in provincia di Venezia, non proprio in laguna. Ah, va bene. Va bene. Accettiamo lo stesso, non siamo discriminatori. Il notaio non si è scomposto, prego. Buongiorno, niente, io chiamavo per il personaggio della settimana. Sì, prego. È Adriano Celentano, secondo me. Perché? Perché questa settimana mi sono, quando ho sentito in occasione del furto in casa Facchinetti, insomma, si sono messi a parlare lui e la moglie, a fare dichiarazioni, perciò ho detto: mamma mia, quanto non lo sentivo, perciò. Sì, si è rivisto. Ho detto, è il classico personaggio della settimana. La notizia c'è assolutamente. Ha fatto un post su Facebook denunciando di 6 persone che hanno fatto diverse irruzioni nel giardino di casa sua, e quindi sia Adriano Celentano sia la moglie Claudia Mori sono molto preoccupati da tutto ciò. Siamo contenti per aver ricordato questa notizia e ricordato Adriano e Claudia, che salutiamo ovviamente, ma non era il personaggio che abbiamo scelto, ma grazie di aver chiamato. Grazie Eleonora, ci ha ricordato anche questa notizia. Luigi da Monza, buongiorno. Che non è un si può fare, la notizia. No. Vai, Luigi. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Complimenti della trasmissione. Grazie. Per cosa chiamavi? Vorrei esprimere il mio, cioè per dire, del personaggio. Sì? Sì. E Renzi. Perché? Così. Così, perché è sempre un personaggio. Però Luigi, noi vogliamo una notizia di questa settimana su Renzi, forse ne abbiamo. È fin troppo facile, se vogliamo. Comunque è tornato sulla scena. Ma per precisione notarile, dici è Renzi, ma intendi Matteo o Tiziano? Perché Matteo, in questa settimana... Matteo, certo, non è il personaggio che avevamo scelto. Di notizie ovviamente ce n'è tantissime, ma non è lui. Non era lui, grazie. Comunque 800 24 00 24 è un altro personaggio che è tornato sulla scena, che andiamo cercando. Tra poco un altro indizio. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Siamo il capitano che vi fa l'inchino. Siamo la ragazza nel bel mezzo dell'inchino. Siamo i trucchi nuovi per i maghi vecchi. Siamo le ragazze nella sala degli specchi. Siamo il culo sulla sedia, il dramma, la commedia, il facile rimedio. Siamo l'arroganza che non ha paura. Siamo quelli a cui non devi chiedere fattura. Siamo il sale della terra. Nove, 18 minuti. Allora, lo diamo un altro indizio per gli ascoltatori, certo, che stanno cercando a tentoni un personaggio della settimana che è sì tornato sulla scena, ma è un'icona. Questo è il secondo indizio, è un'icona. Quindi pensate, 800 24 00 24. Sulle note di Ligabue, il sale della terra. Vabbè, subito salutiamolo. Flavio Insinna, buongiorno. Buongiorno, buona domenica. Buona domenica. Buongiorno. Buongiorno. Tirare giù dal letto un atto. Io non dormo praticamente da anni. Quindi... Hai smesso proprio? Hai smesso con questo vizio inutile? Hai già fatto una mattinée stamattina alle 7:15? Sì. Non ho ancora. Regalato le mie qualità, ma mettiamo in collegamento Ligabue con Flavio Insinna. Flavio Insinna, testimonial a questo punto della campagna di Riparte il Futuro. Riparte il Futuro è una, leggo testualmente, ma ne abbiamo parlato tante volte anche con loro, una comunità digitale apartitica di oltre 1 milione di persone che cerca di sconfiggere la corruzione promuovendo la trasparenza e la certezza del diritto. Insomma, questa settimana di notizie sulla corruzione, ahimè, sembra sempre di tornare alla casella di... Ne abbiamo tutte le settimane comunque, è una comunità straordinaria perché si occupa di qualcosa che effettivamente tutte le settimane è in prima pagina. Ecco. No, che c'entri tu, Flavio? No, perché hai scelto di essere testimonial di questa campagna? Ma insomma, io un po' al di là del mestiere che faccio, per altre cose vengo, come dire, appunto vengo contattato e negli anni insomma ci sono delle mie collaborazioni con le cose, quelle vere della vita, appunto il sale della terra. Giusto. Per citare il maestro Ligabue, altrimenti si rischia insomma, di finire la propria vita così, rimbambiti tra lustrini, pagliette e riflettori accesi. No, quando Italo Calvino dice che il pronome io è il pidocchio del discorso, no? Io certo. Faccio un mestiere che rischia di rimbambirti, no? E dire solo io. Che bella la citazione di Italo Calvino domenica mattina, devo dire che è una delle più alte che siano mai state fatte. Poi con la tua leggerezza è bello. Arrossisco per radio. Però, grazie. Senti, Flavio, però quindi ecco, allora, siccome io penso, cioè per dirti, guarda, così la mia famiglia, questi valori a me, la mia sorella, ha passato il fatto che si è in una società, in un paese che dovrebbe essere civile, che le tasse le paghi perché andranno per gli ospedali, per le scuole, e questo paese invece molto spesso ha il sottile piacere di pensare che è stato furbo, non disonesto. però vero, Ulisse, vero. Ulisse sì è furbo, ma Dante lo mette all'inferno perché imbroglia a furia di essere furbi. Ma vabbè, io mi alzo e me ne troppo... vado. Seconda citazione, tra l'altro, dici una cosa molto, molto, molto precisa, perché è il ribaltamento è esattamente questo: cioè rendersi conto che non pagare le tasse è veramente stupido perché stai rubando a te stesso. Stai rubando a te stesso, agli altri, alla comunità dove vivi, fai un danno. Non è... Leggevo un po' di tempo fa un rapporto di uno studioso e diceva per gli italiani, non tutti, senza generalizzare naturalmente, dice non pagare l'IVA è un fatto patologico. E allora, cioè, noi dobbiamo ritrovare, adesso giuro non è citazione, è proprio solo la frase, il piacere dell'onestà, ma il piacere di essere onesti per te e per gli altri. Certo. Ripeto, non sei furbo, dici ah che figata, no, hai tolto alle scuole, alle buche, alla strada, ai servizi, agli ospedali, alle scuole. Allora, anticorruzione, per dirti, mio papà lavorava come medico e per lunghi periodi aveva anche delle mansioni come, diciamo, sorvegliava, diciamo, questa, adesso dico una parola, alla regione Lazio. Una volta io fui operato da bambino e naturalmente lui pagò il conto di questa clinica. Uscendo, il proprietario, non il medico, il proprietario, diciamo, dell'impianto, della struttura, della clinica, disse, ah dottore, cosa offriamo a questo bel ragazzone, riferendoci a me, ragazzino. Mio padre mi stritolò la mano, io capii naturalmente che dovevo dire no, grazie, niente. Niente, assolutamente niente. Era il segnale bello. Convenuto questo. Segnale scatenato. Vorremmo avere avuto tutti un padre così, te lo in dico. In macchina, sì. Io dico, scusa papà, ma perché? Cioè, perché quel signore, dice, io di questa clinica, dice, devo controllare i conti, dice, e dovessimo un giorno finire in tribunale, non potrà dire neanche che ci ha offerto un caffè e un gelato. Ora, certo. Mio padre sarà stato uno psicopatico della non è vero, invece è molto precisa questa cosa. Allora, crescendo con questi concetti fondamentali, ripeto, pensi agli altri, cerchi tutti i giorni di non sbagliare, perché poi sicuramente un giorno magari avrò il mio commercialista involontariamente avrà sbagliato qualcosa, però dormire sereni per me non c'è prezzo. Ma hai già risposto, io mi ho preparato una domanda, no? Perché finché si parla di corruzione, per esempio per quanto riguarda i politici, siamo tutti d'accordo, è tutto magna magna, sono altri, no, quelli che rubano. Quando poi si scende a livelli più bassi, la pratica in comune, mi metti in lista dal dottore eccetera eccetera, il primario che ti offre il caffè, cioè, siamo meno consapevoli noi italiani, e l'hai detto tu benissimo fino ad ora. Ma ti voglio chiedere, ma non temi che la tua vicina di casa, il panettiere, vedono Flavio Insigne e dicono ma che si è messo in testa questo di fare l'eroe, perché c'è una giustificazione, gli italiani dicono tutti fanno così, e poi insomma l'Italia è un paese senza regole, senza meritocrazia, quindi bisogna aiutarsi da soli perché se no non ce la si fa, no? E questa è la giustificazione sbagliata. Ma guarda, la campagna è cominciata, è andata già anche in rete, no? E dice, io c'è la mia foto con la maglietta appunto di Riparte il Futuro contro la corruzione. Una mia, l'hai pagata la maglietta, vero? Certo, io ho detto dico me la mandate. No, sì, dice no, ma te regaliamo. Dico no, ma l'ho comprata veramente. Me l'hanno spedita. Ma sono piccole cose, ma mica perché uno è un genio, però è troppo facile appunto indicare l'altro. Io quando anche guardi la televisione mi avvilisco, perché ogni giorno, come dicevate all'inizio, ogni minuto uno scandalo, una cosa, non sei più a chi credere, però questo non mi impedisce di fare la mia piccolissima politica. Poi lo so, io è andata in rete la campagna di Riparte il Futuro, è chiaro che ti scrivono parli te, guadagni il Rai, sei il primo e cosa, ma lo metti in conto, ma questo però non mi impedisce, sapendo in realtà come cerco di vivere, con mille sbagli, ma cercando di tirare dritto per una linea fatta di alcuni concetti basi inalienabili che non posso evitare, e quindi lo so che io lo faccio, non dico razzolando in maniera perfetta, però sicuramente potendomela mettere la maglietta. Molto giusto, hai toccato un altro punto in realtà fondamentale, perché è molte volte da certe posizioni è quasi più facile non fare niente, di modo che uno non si attira nemmeno le critiche, invece è molto sbagliato, e secondo me fai molto bene. Tu dici, certo che poi mi diranno ah proprio tu che lavori in Rai, e invece va detto e va fatta questa cosa per ricordarlo, che anche uno che è in una certa posizione in realtà si può fare meglio. Certo. Tu continui a fare, cioè secondo me tu fai, e poi c'è quella meravigliosa piccola poesiola, quello scritto su cos'è il successo, no? E finisce con, dice, lasciare il mondo migliore anche di un millimetro di come l'hai trovato. Cioè, se ognuno sognasse quello, sognasse di lasciarlo un millimetro, un certo, millimetro più bello, un grammo più bello. Siamo tanti, un millimetro per uno, dici tu. Arriviamo fatto, lontani. Senti, l'abbiamo Flavio, fatto. Una domanda difficile, però te la voglio fare, questa, no? Riguarda adesso, tu sei romanista, oltre che vivere a Roma, c'è questa questione dello stadio, no? Lo famoso stadio della Roma. Allora, pensi che, naturalmente c'è la questione del regalo agli speculatori e il rischio ogni volta che si fa un'opera pubblica che ci sia dietro della corruzione, abbiamo mille autorità anticorruzione. Non ti voglio chiedere se lo stadio si deve fare o non si deve fare, perché altrimenti la mettiamo sul ridere, ma pensi che ce la farà Roma a superare questo complesso? Ce la farà Roma a costruire un'opera pubblica tranquillamente, senza in modo corretto, senza corruzione, per esempio, senza fare niente? Guarda, io, cioè, non è che sarà una, insomma, non una riflessione altissima, però, ma non parlo da un punto di vista politico, però quando ho sentito che una delle motivazioni per non fare le Olimpiadi era che avrebbe appunto vinto la corruzione, e poi se ci spostiamo allo stadio, quindi stiamo alzando le mani, ci cioè ammettiamo che abbiamo perso, hanno vinto loro. Cioè, perché se tu mi dici un altro motivo, cioè in quel punto non è bello, lì non è, cioè non è funzionale, è pericoloso, certo. È pericoloso, ma se tu mi dici che se facciamo fare una cosa vincerà la corruzione, allora andiamo via. Sì, hai ragione. Sì. Io fra un po' non festeggiamo nemmeno più Natale, perché uno dice, chi lo sa, magari poi sotto dice, il panettone qualcuno... bravo, esatto. Natale, dove l'ha presi? Hai ragione. Cioè, io voglio credere che ancora vinciamo noi. Cioè, o comunque, cioè, a fatica, pareggiamo? Per restare nella metafora calcistica. Pareggiamo Rocky. Per l'Italia con la corruzione, secondo me sarebbe un ottimo risultato, comunque. Già un pareggio, meglio. C'è da fare. Io spero, ma guarda, ma io mi augurerei che lo avessero tutte e due le squadre, fatto naturalmente appunto senza scoprire, come ad esempio a Italia 90, che gli stati non erano stati fatti a norma, cioè che l'ambulanza scoprirono che non ci passava nel sottopassaggio per arrivare in campo, perché credo avessero lesinato su materiali, altezze e cose. Lo so che è un paese, è anche una città che ti mette a dura prova, ma a maggior ragione. Allora, se ti chiama Riparte il Futuro, o parlo per me, Sant'Egidio, la comunità o Emergency, alle volte rido, ne parlo con mia madre, si rischia di voler sembrare il più buono del quartiere, però sempre meglio che rischiare di essere più cattivo del quartiere. Giustissimo. Cioè, io poi alcune volte dico no e mi dispiace, perché hai la percezione di diventare non credibile. Cioè, se li fai tutti, allora apri un canale di charity, sostegno, se fai una televisione tutte le ore, fai campagne di solidarietà, rischi di non essere più credibile se ne fai 100 al mese. Però quelle tre o quattro cose fisse, che diventano anche di amicizia, che sono nella mia vita, io le continuerò a fare, anche se appunto ti diranno fai in fretta a farlo te, tanto poi te fai. Però non mi interessa, cioè preferisco, insomma, beccarmi qualche inutile insulto. Capisco che il periodo è anche difficile, quindi spiegare alle persone, c'è frustrazione, disoccupazione e 2000 problemi, quindi non lo metto anche in conto che le persone non soddisfatte di loro stesse abbiano come unico sfogo, certo, di dire a un altro che lo immaginano felice sempre, tutto il giorno, di dire, perché c'è anche quello, quindi va bene, a 51 anni, quasi 52, con i capelli grigi, cerchi di anche un po' di maturità e di capire gli altri. Ma ripeto, questo non mi fermerà, perché questo è un paese che ha bisogno di non solo di piccoli esempi, ma proprio di immettere nella vita del nostro paese cose pratiche fatte in maniera onesta. Però, ripeto, io ho paura a volte che ci sia un DNA, ripeto, senza generalizzare, dove sotto sotto un po' ci piace. Io, una cosa che unisce il mio mestiere e la vita vera, io dico sempre, guardate che non l'avete capiti i film d'Alberto Sordi, cioè lui li faceva vedere quei difetti, sì, per dire non si fa così, non si non fa. Che qualcuno l'ha presa invece, certo, alla lettera, qualcuno l'ha presa alla lettera, si è fermata ai titoli di coda, esatto, invece c'era il dopo, c'era il dibattito. E devo dire che il fatto che, devo dire che, il fatto il che tu, Flavio Insinna, che invece con i tuoi personaggi, col tuo capacità d'attore, interpreti un po' questa linea della commedia all'italiana, anche calcare sui difetti degli italiani, però sentirti invece dire chiaramente questo, attenzione, perché lo facciamo per stigmatizzarli, per renderli negativi, non perché si faccia allo stesso modo, mi piace molto, e quindi complimenti doppi, grazie Flavio Insinna. No, grazie a voi. Io sono... grazie mille, davvero, grazie. Ma è un titolo meraviglioso, ci pensavo e ci ripetevo, perché io poi appunto vi ascolto. Forse alle volte ci spaventiamo e pensiamo che non si possa più fare, invece come dite voi si può fare, guardate, si può vivere in un paese senza corruzione, civile e solidale, si può fare, fate benissimo, questo è il programma, questo è il programma, te lo dico, complimenti, e tenetelo, mi fa molto grazie, piacere, grazie mille, veramente grazie, grazie a voi, ciao, grazie, Flavio, ciao, buona giornata. Domenica. Voglio solo ricordare che dopo Affari Tuoi Flavio Insinna adesso sta conducendo insieme a Nino Frassica Dopo Fiction, in seconda serata sulla Rai, un programma che ha raccolto nelle prime puntate, le prime tre puntate, fra il 14 e il 15% di share, quindi complimenti anche per questo, perché buona televisione, la fiction, grandi risultati di Montalbano, bisogna farsi una ragione, questa roba piace, quindi certo, continuiamo a produrre bella televisione, molti critici sono sperticati in lodi della fiction, che finalmente la Rai torna a fare il servizio pubblico, non lo so se sia così, però io Montalbano l'ho visto, mi è piaciuto e penso che sia un bel esempio di televisione, anche pubblica, perché no? 800 24 0024, ci fermiamo e poi tra poco con gli ascoltatori. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. Ecco la tua licenza di caccia, Liuzzi. Eccola, ti ho portato la quaglia. La quaglia? No. Tu sei un mito, Liuzzi, ma tu lo sai che proprio oggi stavo pensando che... Checco, ma non è che corruzione questo? La corruzione è se tu non hai diritto al permesso di caccia, vieni da me, che sono il pubblico posto fisso, e dici, senti, ti do la quaglia, mi do il permesso di caccia, non abbiamo fatto questo accordo. No, dammi la quaglia, dammi qua, dammi. Ma non è che concussione, Checco. La concussione è se tu hai il diritto al permesso di caccia, però io ti dico no, mi devi dare la quaglia. Ti ho fatto per caso questa imposizione? No, tu di tua sponte, signori della corte. Certo. Convinti? Sì, siamo convinti. Dammi qua. E non è non che... Non è che te ne va a fanculo tu e la quaglia oggi, Liuzzi. Scusa, ma la televisione non si fa che parlare di corruzione, concussione... Educazione si chiama questa. Qui per educazione ognuno porta una cosa al posto fisso. Okay? Dammi qua. Eccolo qua, questo è Checco Zalone da Quo Vado, come confondere la pratica in comune con la corruzione, va bene, è educazione. Il buono soprattutto è che finalmente spiega la differenza fra corruzione e concussione, che tutte le volte uno dice, ma qual è che era la concussione? Ovviamente la concussione è nel momento che sei tu quello che ha il potere e obbliga qualcuno in cambio di fare, in realtà per fare il tuo dovere, ti fai pagare una seconda volta. Giorgio dalla provincia di Macerata, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Prego. Allora, secondo me è Zoff. Il personaggio. Questa settimana compie 75 anni. Sì. E è tornato alla ribalta, perché è tornato alla ribalta la sua parata su quel tiro contro il Brasile che ci ha praticamente permesso di... Ah, che meraviglia. Musica per le nostre orecchie. 1982, eravamo 82, bambini, ma insomma è favoloso. Quindi, in effetti il compleanno Zoff. La notizia è a essere precisissimi, se non sbaglio era domenica scorsa il compleanno di Zoff, ma ovviamente è precisissima la notizia, c'è, ma non era il personaggio che abbiamo scelto, ma siamo contenti che tu A abbia ricordato la notizia, B facciamo gli auguri a Dino Zoff. Luciana da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Io ho pensato a Lucio Dalla. Perché? Il motivo è perché a Bologna hanno ricordato la sua nascita e commemorato la morte con degli eventi speciali, facendo sentire la sua voce per le strade, quindi secondo me era un po' come un rinascere. Sì, beh, anche questa è una cosa che ci fa molto piacere. La data di nascita nessuno può dimenticarla, di Lucio Dallo, 4 marzo 43, come la canzone, quindi siamo contenti anche di aver ricordato Lucio Dallo, ma non era il personaggio che abbiamo scelto questa settimana. È tornato sulla scena, è un'icona, diciamo anche che i nostri personaggi possono essere anche pensate a a 360 gradi, perché a volte uno poi si fissa e dice ah, allora saranno sicuramente quei tre, no, pensate a 360 gradi anche oltre, tutto. Anche oltre l'umano. 800 24 00 24. Run my dear son until we get to the tree, keep on going all the way, gotta get right down to the sea, gotta get to the sea. Son, we gotta get to the sea. Don't you touch the water, don't you barely breathe. And if you see yourself looking back at you, you're gonna have to leave, gonna have to leave. Questi è Jack Johnson, cantante che sappiamo impegnato su temi ambientali, quella della canzone delle 3R, tanto per ricordare, riduci, riusa, ricicla, e qua si esibisce in To The Sea. Parliamo di mari. Certo che la canzone delle 3R è detto a me, insomma, io speravo che scegliessero un'altra lettera, ecco. La canzone delle 3R è moscia. Parliamo della campagna delle Nazioni Unite Clean Seas. Questa volta dobbiamo dirlo in inglese per forza, perché lo dico io che non c'è neanche una R. Clean Seas. Bravo, bravissimo. E ne parliamo con Stefano Aliani, che è ricercatore responsabile della sede ISMAR CNR di Lerici, che del mare si occupa sempre e comunque. Buongiorno Aliani. Buongiorno a voi, buongiorno. Benvenuto. Allora, noi insomma, intanto la campagna delle Nazioni Unite Mari Puliti, ce ne sono tante di campagne, questa è una campagna speriamo decisiva, determinante, che ci fa fare un salto di qualità per ripulire il mare, soprattutto per evitare di continuare a inquinarlo. Però voglio partire da una notizia che riguarda il Mediterraneo, perché sapevamo dell'isola di plastica galleggiante nell'oceano, meno notizie sapevano, si pensava che il Mediterraneo forse ingenuamente fosse un mare più in qualche modo più pulito, al riparo da questo, invece non è così, perché recenti ricerche, anche voi l'avete studiato, hanno evidenziato che c'è un sacco di plastica. La parola sacco forse non è usata a caso, perché... un sacco di carta volevi dire, eh? Sì. Ah no, un sacco di plastica, perfetto. Beh, in effetti sì, ma non è solo il Mediterraneo o i gyres, i vortici dell'oceano che sono pieni di plastica. Praticamente tutti gli oceani del mondo sono contaminati da rifiuti plastici. E parlando del Mediterraneo e anche dell'oceano, in realtà il termine isola di plastica è un po' fuorviante, perché non si tratta di un'isola vera e propria, di una zona... Sì. Fisicamente calpestabile o cose del genere, sono aree dove c'è un maggior accumulo per effetto delle correnti, quindi diventa particolarmente denso, ma sono fenomeni in Mediterraneo molto locali. In oceano cominciano invece ad avere delle estensioni notevoli. Tra l'altro, cioè, lei ci diceva che anche il concetto di isola di plastica sembra più rassicurante di quello che è in realtà, perché uno immagina che c'è un po' di plastica raccolta lì nel mezzo, basta andare e tirarla via e abbiamo risolto. Invece quello che sta inquinando il mare sono microparticelle. Esatto, lo scenario non è rassicurante, nel senso l'isoletta da pulire, andare a levare, che comunque è un'operazione meritevole e va fatta, è fuorviante rispetto al fatto che comunque tutto il mare, qualunque porzione che noi abbiamo esplorato sino ad oggi, presenta frammenti di microplastiche. Stiamo parlando di frammenti sotto i 2 mm, lo dico per chi ci ascolta, sì. Perché io quando ho letto questa cosa mi sono, ovviamente nella mia testa all'inizio pensavo alle bottiglie di plastica, anch'io. Poi ho pensato a dei pezzi di plastica un po' più piccoli, ma sotto, stiamo parlando di cose non visibili all'occhio umano, giusto? Esattamente, noi dividiamo per praticità i rifiuti di plastica in mare in macroplastica e microplastica. ponendo il limite intorno ai 2 mm o ai 5 mm a volte. Sono oggetti non visibili ad occhio nudo, guardando anche al microscopio, sono anche difficili da identificare al microscopio e ci vogliono delle tecniche sofisticate. Cosa provoca questo tipo di... Esatto, perché uno dice se non si vedono e anche con il microscopio non si vedono, magari non danno fastidio, invece danno fastidio, giusto? Sì, nel senso, a livello di individuo creano dei problemi, nel senso che alcuni individui, ad esempio il plankton, mangia questi frammenti scambiandoli per cibo e questo gli crea dei problemi. Mancando il plankton, tutta la rete trofica. Poi il plankton viene mangiato dalla balena e poi la balena sta male. Esattamente, quindi andiamo a colpire proprio la base. Il problema è che attualmente mancano ancora delle evidenze scientifiche di danni a livello di popolazioni, quindi questo non significa che non ci siano, significa che non le abbiamo ancora trovate. Siamo un po' all'inizio forse di questo tipo di studi. Siamo molto all'inizio di questo tipo di ricerca, per quanto i primi lavori scientifici risalgono agli anni 70, l'attenzione è cresciuta solo negli ultimi anni e quindi siamo un po' indietro per molte delle risposte. Ecco, cerchiamo di fare qualche bel passo in avanti, perché allora io cito alcune meritevoli iniziative che sono dalla iniziativa di quel giovane olandese che con una startup, il crowdfunding, sta cercando di mettere insieme un sistema per captare queste plastiche, a questi cilindri raccoglitori di plastica che in alcuni porti si stanno utilizzando, i salsicciotti delle barche fatti con materiali, Daniela Ducato ne abbiamo parlato, dalla Sardegna ha una linea di prodotti di questo tipo, però sono piccole iniziative, importanti palliativi. Che cosa invece è che provoca il primo fattore inquinante per la plastica in mare, la cosa a cui dobbiamo stare più attenti per evitare che tutto questo accada? Aliani, qual è dal vostro punto di vista? Diciamo che qualsiasi iniziativa volta a pulire in maniera sostenibile il mare è ben vista, è ben accetta ed è positiva. Dico in maniera sostenibile perché togliendo la plastica dal mare potremmo anche togliere il plankton se non lo leviamo nella maniera adeguata, e questo è estremamente dannoso. La principale sorgente plastica e poi di microplastica che viene degradata in mare, quindi raggiunge le dimensioni che vediamo in mare, la contaminazione terrestre, cioè sono le attività terrestri che inquinano il mare attraverso i fiumi, attraverso il vento, attraverso le spiagge mal curate. Ma tutte le attività, o ci sono delle attività, nel senso che dal picnic, quando lascio il piatto di plastica, a immagino le industrie, paesi giusto? Dove non ci sono depuratori, magari dove le industrie non sono controllate. Tutto. Noi produciamo una quantità immensa di plastica e solo una parte, ultimamente anche abbastanza significativa, però solo una parte viene di fatto trattata, gestita come rifiuto. Finisce spesso abbandonata nell'ambiente in maniera meno controllata e quindi finisce in mare, inevitabile. Possiamo immaginare che con l'affermarsi, speriamo sempre di più, dell'economia circolare cosiddetta, cioè la consapevolezza che i rifiuti non sono scarti ma sono materie prime preziosissime, la plastica si riusa tutta ormai, forse una sorgente in diminuzione di inquinamento dalla plastica, vogliamo sperare che questo accada sempre di più. Prego. Assolutamente sì. Nel senso, noi dobbiamo pensare alla plastica come un prodotto del XXI secolo. Sicuramente il XXI secolo prevederà un uso sempre più massiccio di polimeri plastici, e questa è una cosa positiva, perché noi la plastica la utilizziamo in applicazioni incredibili ed è un prodotto assolutamente fondamentale per la nostra vita quotidiana ormai. Allo stesso tempo dobbiamo potenziare la nostra capacità di recupero e riciclo, e quindi trasformare la plastica da un rifiuto in un valore. Certo, purtroppo, devo anche aggiungere soltanto una cosa, scusate, che riguarda questa campagna dell'ONU Clean Seas, che invitiamo dal nostro piccolo pulpito della domenica mattina tutti i paesi ad aderire, perché per ora l'elenco non è molto rassicurante. È corto. Belgio, è Costa Rica, corto. Francia, Grenada, però, Indonesia, Norvegia, Panama, Santa Lucia, Sierra Leone, Uruguay. Insomma. Però proprio riguardo a questa campagna, secondo me c'è uno spostamento di paradigma che mi sembra molto interessante, che voi voi dite il mare non si potrà mai pulire tutto e bisogna un po' uscire dalla logica del fatto che io sporco il mare, tanto poi ci sarà qualcuno che fa delle simpatiche campagne per cui lo ripulisce, ma voi spostate il problema e dite bisogna ridurre l'impatto, cioè bisogna non inquinare, non è che bisogna andare a pulirlo. Poi giustamente, come appena ricordato, tutte le iniziative di persone che vanno a pulire il mare sono ben accette, però mi sembra che voi state spostando l'attenzione sul fatto che non bisogna inquinare. Esattamente. Per dire anche qualcosa di positivo, perché sennò mi sembra che dice tanto. No, io non sono assolutamente negativo, nel senso noi dobbiamo avere oggettivamente la percezione che uno, la plastica è un prodotto del futuro, due, la dobbiamo gestire in maniera economicamente ed ecologicamente sostenibile, quindi riciclare eccetera. Allo stesso tempo dobbiamo essere consapevoli che pulire il mare, cioè, non è possibile. Certo. C'è addirittura, ci sono modi di dire per indicare attività, pulire il mare un po' per indicare un'attività immensa, inutile e impossibile da fare. Nel nostro caso... Ormai diremo è come una microplastica nel mare, invece che dire una goccia nel mare diremo una microplastica. Speriamo che questa campagna delle Nazioni Unite dia un nuovo impulso. Grazie intanto a Stefano Agliani, ricercatore del CNR di Lerici. Grazie per essere mille. Stato con noi. Le notizie non sono, ahimè, rassicuranti, ma bisogna avere paura di quello che abbiamo fatto fin qua e cambiare completamente strada. 800 24 00 24, torniamo tra poco dopo il traffico. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, cari ascoltatori, 9:50 minuti di ultima porzione di Si può fare per questa domenica mattina. Ve la do io una buona notizia sul fronte della plastica in mare. Per esempio, la Francia dal 2020 addio alle stoviglie di plastica monouso. Basta. Come per i sacchetti di plastica che non sono più, sono fuori legge, devono essere riciclabili, compostabili. La stessa cosa succederà per le stoviglie di plastica, piatti, i bicchieri. Ma quello che mi chiedo, nel sarà senso, poca cosa, ma bisogna. No, no, iniziare. Non è poca cosa, è una cosa gigantesca questa. Ma quello che non ho capito è: quindi si possono fare solamente i picnic composati d'argento, o sì, bisogna produrre, con le nuove, queste nuove bioplastiche che sono biodegradabili? In questo? Francia hanno un certo chic, una certa allure. Quindi appena ho letto la notizia, ho detto: vabbè, certo, però non è che si possa sempre andare con tutto d'argento. Alessandro da Milano, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Grazie. Su cosa volevi intervenire? Ma sul personaggio della settimana. Prego. Ti amo. Il Nokia 3310. Il telefono? Il Nokia 3310. Sì. Perché? Perché avete detto che è un'icona, diciamo che l'associazione con la tecnologia, quindi mi è venuto in mente quello. Eccolo là. Ma ti chiedevamo perché volevamo sapere la notizia, sì, la motivazione. La notizia perché hanno, diciamo, riproposto in versione moderna, sì, un telefono, diciamo, che ha fatto storia. Moderna, ma non modernissima, nel senso che senza è proprio internet, il concetto del vecchio, sì, telefonino di una volta. Certo. È un telefonino che, se non sbaglio, ha venduto 128 milioni di esemplari in passato, era proprio il più famoso della Nokia. Hanno deciso di rimetterlo in produzione ed è stato presentato, se non sbaglio, a Barcellona, la settimana della tecnologia mobile, e l'hanno rimesso in produzione. Un po' un ritorno, un po' come quando tornano gli anni 80 già negli anni 90, perché è un ritorno dell'altro ieri, e quindi ci siamo chiesti e ci è sembrata una notizia molto curiosa, un ritorno al passato però già del telefonino, insomma ci siamo sentiti molto vecchi. Ci piaceva l'idea del telefono senza internet, senza WhatsApp, il telefono che telefona. Che c'ha Snake, credo, come unico giochino c'ha Snake, che era quel vermiciattolo che mangiava i quadratini e a forza di mangiarli si allungava. Chi l'ha avuto se lo ricorda sicuramente. Allora, grazie ad Alessandro. Complimenti, si porta a casa un libro della libreria di Radio 24. Sarà contattato per ricevere il premio dal nostro centralino. Adesso, ancora pochi minuti, e parliamo di Rospi. Destinazione può. Allora, andiamo veloci perché siamo in chiusura e vogliamo dedicare un paio di minuti a questa notizia. La canzone dei Subsonica si chiama Strade ed è sulle strade che dobbiamo stare attenti a non investire i rospi in questa stagione, perché Ronny Bessi, erpetologo della struttura Flora e Fauna della Società di Agricoltura Regione Valle d'Aosta, che cosa fanno i rospi in questi giorni? Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. In questi giorni, anzi in queste notti, sì, si stanno preparando ad uscire per la loro migrazione per la festa dell'amore, l'annuale festa dell'amore dei rospi. Cioè loro praticamente con la festa dell'amore i rospi ci annunciano anche l'arrivo della primavera, diciamolo. Sì, sono infatti molto anticipatori rispetto alle rondini, per esempio. Loro appena hanno il sentore che la temperatura è cambiata, tac, che c'è stata quella svolta stagionale, gli viene voglia di fare l'amore. Aspettano la prima notte di pioggia, sì, esatto, e hanno in testa solo quello. Però questo li mette a rischio, perché in queste loro migrazioni spesso fanno una brutta fine. Sì, nel senso che loro hanno memorizzato praticamente il percorso per arrivare al lago dove sono nati. Sì. Questo percorso spesso attraversa delle strade di notte, gli automobilisti in genere non li vedono e i rossi hanno l'abitudine, quando c'è un pericolo, di fermarsi di colpo. Addio, e lì succede il patatà. Consapevolmente, non colpevoli, però gli autisti durante la notte possono metterli sotto e ucciderne parecchi. Quindi in queste notti diamo velocissimamente qualche appuntamento, dove, come si può andare ad aiutare rospi. I rospi. Dove si trovano questi rospi da baciare e far diventare dei principi? Anche per diventare delle principesse. Sì. Va benissimo, noi accettiamo tutto, non siamo... ci mancherebbe. Okay. Allora, noi intanto stiamo aspettando la famosa prima notte magica di pioggia di primavera. Sì. Le persone possono già prenotarsi, anzi abbiamo già decine di prenotazioni. Bene. Debbono chiamare la segreteria della struttura Flora e Fauna della regione Valle d'Aosta. Ok. Quindi basta che il numero del centralino ci si mette in lista e si viene dislocati in qualche zona. Noi adesso però dobbiamo chiudere. Noi la ringraziamo, Ronny Bessi. Grazie mille. Della regione Valle d'Aosta. Attenzione ai rospi di notte in queste notti. E ai a me piacciono i principi, ma vanno benissimo anche le principesse, ovviamente. Ci sentiamo sabato prossimo, Si può fare. Grazie ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli, Andrea Roccabella in regia. Da oggi ci risentiamo sabato prossimo. Ciao da Alessio Maurizi e ciao da Carlo Gabardini. Buona domenica anche a chi ci ascolta in podcast. Ciao.